Allora, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, dunque, questa mattina, una mattinata in cui ci si è svegliati abbastanza presto, i lavoratori del magazzino Risparmio Casa, che si trova sull'Ardiatina, perché insomma fin da ieri si ventilavano minacciose avvertimenti circa la possibilità che il magazzino chiudesse, facendo a meno evidentemente anche di chi ci lavora. Insomma, cosa è successo e come poi i lavoratori si sono organizzati per far fronte a questa situazione questa mattina? Esattamente, tu sei partito dalla fine e hai fatto bene, perché il punto è proprio questo. Si tratta del magazzino, dei lavoratori che lavorano in una cooperativa in appalto per Risparmio Casa, Rica Distribuzione, 70 punti vendita in tutta Italia, alcuni di proprietà, altri in franchising, che vendono sostanzialmente casalinghi e detersivi. Quindi si parla di un'azienda molto ricca. Questa azienda ha cambiato cooperativa negli ultimi 3-4 mesi, e il risultato è stato ovviamente che i salari si sono ulteriormente abbassati, arrivando a 1000 euro al mese netto, tutto compreso, con buste paga non regolari. A questo punto i lavoratori, dopo aver riflettuto al loro interno, hanno deciso di aprire una vertenza per il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, che è quello della logistica, e ci hanno contattato come Sicobas. Ci siamo organizzati per circa un mesetto, dopodiché siamo usciti alla scoperta, abbiamo fatto il primo sciopero, e questa è una cosa nota agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, perché avevo già fatto una corrispondenza in tal senso. La cooperativa e il committente hanno risposto in un primo tempo cercando di resistere, ma quasi subito hanno accettato il tavolo di trattative per discutere nel merito delle richieste. Se non che è arrivata, hanno usato questi 20 giorni della trattativa per riorganizzarsi e tentare sostanzialmente, mi senti? Sì, sì. Di far fuori tutti i lavoratori. In che modo? Inventandosi il fatto che la della zona di Pomezia avrebbe dichiarato inagibile il magazzino. Ieri sera alle 5 gli ha comunicato che da stamattina non dovevano più venire a lavorare perché il magazzino era chiuso per inagibilità dall'ASL. A questo punto i lavoratori giustamente non ci hanno creduto, anche perché avevamo saputo da svariati giorni che l'azienda stava affrontando un altro magazzino e stava iniziando a lavorare altri lavoratori su questo magazzino al posto nostro, per cui i lavoratori sono scesi subito in sciopero. Quindi noi siamo in sciopero dalle 6 circa di ieri pomeriggio, chiedendo all'azienda sostanzialmente che garantisse ai lavoratori il posto di lavoro, sia nel caso che rimanesse aperto questo magazzino, sia nel caso che l'attività si trasferisse con l'altro magazzino. L'azienda non ha risposto a queste richieste e stamattina ha tentato di far uscire i camion, nonostante lo sciopero dei lavoratori, cercando di far lavorare quei pochissimi, su 70 lavoratori noi ne abbiamo contatti 3 della cooperativa, più qualcuno di esterno, che sono stati disposti a lavorare. Per cui la situazione è molto semplice, ormai la battaglia non è più solo per l'adeguamento del contratto, ma proprio per il posto di lavoro, perché l'azienda committente, la Rica Distribuzione Risparmio Casa, ha deciso di sbarazzarsi di questi 70 lavoratori e appoggiandosi l'attività su un altro magazzino e su altri lavoratori. È chiaro che noi non, molto probabilmente non vorranno licenziarli tutti a 70, ma magari spaccarne e prendere una piccola parte, facendogli abbassare la testa e promettendo da lavoro gli altri lavoratori. Noi però il giochetto l'abbiamo capito subito, siamo tutti compatti, e quindi da ieri che stiamo presidiando il magazzino. Purtroppo ad oggi l'atteggiamento del committente, prima ancora che del datore di lavoro, cioè della cooperativa, che poi non è altro che l'intermediario della lavorazione, del caporale, è molto rigido, perché sostanzialmente non parla con i lavoratori e non accetta nessun di dare alcuna garanzia rispetto alla conservazione del posto di lavoro. Per questo motivo approfittiamo dell'ospitalità dataci dalla radio per invitare tutti i lavoratori, i collettivi, le strutture che possono venire a darci una mano, a venire a via Ardiatina chilometro 21 e 8, all'impianto Risparmio Casa, anche perché praticamente da oggi pomeriggio i luoghi di lavoro fisici da presidiare saranno 2, questo è il magazzino nuovo vicino su cui stanno cercando di dirottare l'attività. Stamattina sono già venuti dei compagni del vicino coordinamento contro l'inceneritore di Albano per assicurare l'appoggio del coordinamento, che peraltro in questi giorni sta facendo un camping di fronte all'inceneritore, e questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere, ma l'invito che rinnoviamo è quello di passare in ogni momento il più numerosi possibile, perché la vertenza è una vertenza molto dura e si tratta dell'alternativa: o vincono loro e ci buttano fuori dal nostro posto di lavoro, o vinciamo noi e vediamo rispettati i nostri diritti, adeguate le buste paga e chiaramente conservato il posto di lavoro. Senti, ma questa situazione, che insomma è abbastanza delicata e certamente presuppone anche, come dire, una certa determinazione, un confronto, come tu dicevi, anche duro, vista l'atteggiamento insomma rigido della controparte, diciamo così, è intervenuto qualcuno? Anche tu mi accennavi forse prima anche che c'è stato un intervento delle forze dell'ordine per capire un po', insomma, perché così d'amblè il fatto che in 70 si ritrovino a spasso così da un momento all'altro, insomma, è abbastanza grave come decisione. Allora, è intervenuta solo una pattuglia dei carabinieri, poi seguita da una seconda, che però è venuta semplicemente per fare, diciamo, le constatazioni del caso. Ha raccolto, cioè, riguardo alla questione dell'ASL, delle varie, diciamo, parti, compresa quella dei lavoratori, e tra l'altro perfino, diciamo, la pattuglia dei carabinieri è stata abbastanza evidente che non ha potuto non rilevare le palesi contraddizioni nelle spiegazioni che davano il committente, perché poi in tutto questo la cooperativa e il datore di lavoro è sparito, è rimasto solo il committente, il quale cercava di parlare direttamente con i lavoratori uno per uno e di spaccare i lavoratori. Da un lato, e dall'altro cercava di usare i carabinieri per intimidirci, dicendo che aveva sporto una denuncia per il blocco dei camion. Quando la pattuglia è arrivata, i camion chiaramente non erano bloccati, per cui la pattuglia ha rilevato il fatto che i camion non erano bloccati, e dopo un'oretta circa se ne sono andati, e questo è quanto. Chiaramente, siccome davanti a noi abbiamo un periodo di tempo che non sappiamo quantificare, di continuo sciopero e presidio qui davanti, la situazione, come dicevi tu, è molto dura, cioè la rigidità del committente della cooperativa è totale, e quindi niente, noi dobbiamo proseguire con la stessa determinazione che abbiamo dimostrato a partire da ieri pomeriggio. Allora, ovviamente rinnoviamo l'appello a chi è all'ascolto di raggiungere il presidio che si trova al chilometro 21,8 dell'Ardiatina per sostenere i lavoratori in lotta della logistica, in particolare del magazzino Risparmio Casa. E con te invece rimaniamo che, diciamo, dopo mezzogiorno proviamo a risentirci per capire un po' se ci sono state delle evoluzioni, d'accordo? Scusami un attimo. Scusami un secondo, a fare il lavoro nostro? In questo momento i lavoratori mi stanno dicendo che il committente si è messo d'accordo per far entrare i lavoratori di un'altra cooperativa a fare il nostro lavoro. Ah. Il committente Rica, quindi Risparmio Casa. Sì. Tra l'altro, un'altra cosa che vogliamo fare e chiediamo a questo punto il sostegno di tutti e tutte è il fatto di andare anche davanti ai punti vendita di Risparmio Casa per denunciare l'atteggiamento di Risparmio Casa, perché a questo punto è evidente che, a fronte dei lavoratori in sciopero, che in teoria si troverebbero di fronte a un problema di inagibilità di magazzino, il tentativo palese è quello di estrometterli dal lavoro, di far lavorare altra gente al posto loro, sia sul nuovo magazzino che sul vecchio magazzino. Quindi noi a questo punto credo che dobbiamo anche interrompere la comunicazione. Vi ringraziamo, rinnovando, diciamo, l'invito a venire tutti qua, perché abbiamo anche il problema che adesso stanno facendo entrare altri lavoratori. Ma stanno proprio entrando? Sì, stanno entrando. Sì. Ah, ma scusa se faccio un po' l'ingenuo della situazione, diciamo, non sarebbe proprio sì, possibile una manovra del genere. Sì, ecco. In sciopero, senza dubbio. Va bene, va assolutamente bene. Assolutamente sì. D'accordo, a più tardi allora. Grazie, allora quando volete ci risentiamo. Esatto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti.